questa è la ballata di Lu clandestino. Barconi fantasma, navi senza capitano, solo con la speranza affrontano lo mare. Tutti grigi con un carico di vita, con pienze cristi, persi morti alla deriva. Quetta navi, vedi c'è le tempi, si andan solto l'albanese, che sta con una terra. Era l'90 che sbarcavano donui dopo 15 anni, la realtà non è cambiata mai. Mai. Sopra tutti uguali e no giudizio universale, querce santi, scritti con dottori e l'ufficiale. Da bagnona che su nava che si sposa, la staccata entra in stiva, la piccina che aspettava mamma sa vuole la montua libertà. Ma in un nome sbagliato questa campa mano qua, era meglio speranza che diciano gli antichi. Questa non mori mai e dico io non mori così. Questa è la ballata di un clandestino, un cristiano come voi, con un destino. È strano non ti faccio di certo vero. Questa è la ballata di un clandestino, non mi cimentare, ci dico, sono diverso, diverso di un mondo, perciò ho perso una casa e un lavoro, un pane e poi un vino. Questa è la ballata di un clandestino. Stella.